13. Ascolta e prendi appunti. 1. I passeggeri del volo Alitalia AZ853 sono attesi al gate B23. 2. Il dottore è in ospedale il giovedì mattina alle 8:30. 3. Per informazioni, chiamare il numero 8181555. 4. Il presidente ha 75 anni. 5. Il giornale è di sabato 27 aprile 2015. 6. La patente è valida fino al 12 giugno 2025. 7. Il ristorante è chiuso il mercoledì. 8. Le scuole sono chiuse in estate.